Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say I. Un, due, tre, prova. And I say neither, either, either, neither. E chi sarà mai? You like potato and I like potato. Eccole, eccole, eccole, eccole che ci squillano allo 06 49 17 50. Nonostante siamo in un orario non consone alle patate spiritose, così come ci chiama qualcuna. Bene, se ci riconoscete e ci mandate lo squillo dell'amore, grazie. Ma l'avete sentita o no? Non mi hanno sentito perché c'era tutta la musica. Dicevo grazie per gli squilli d'amore, grazie per gli squilli d'amore. L'amore è tutto intorno a noi e la luce rossa dell'amore dello 06491754. Forse ci stanno chiamando veramente, però, perché è uno squillo che non smette mai. E ricordatevi che c'è anche il messaggino da mandare al 342-357-4357. Mandateci le dichiarazioni d'amore. Noi siamo qua e oggi mi è riposseduta da qualcuno che non voglio sapere chi è, soprattutto amore, amore. Sole, cuore, amore. Beh, ci avete riconosciuto questo che sta per iniziare alle 22.08, Spirito di patata. Qui c'è Clo che ha 20 anni di meno, di più anzi, questa settimana. E abbiamo una puntata ricca, come al solito, di cose, argomenti trovati. Ma aspetta che ti alzo il microfono. Boicottando, mi sta. No, non ti sto boicottando, sto cercando di capire che microfoni hai. Molto, calma, molto poco. Calma. Dai, allora, senti, io c'ho subito un ma ancora non è finita la sigla, ma lasciala. So if you go for oysters and I 750, fateci compagnia in questa puntata, è notturna, la seconda puntata è notturna, nuova. Siamo in una forma, siamo in un mondo un po' così. I say father and you say pater. I say mother and you say mater. Taters, mater, uncle, auntie. Ma niente, io parlavo e nessuno mi sentiva. Ma no, stavo ti sentivo. Stavo dicendo non lo sai manco tu che stavi dicendo. No, perché non posso ripetere, poi non si ripetono le cose, non vengono come mai uguale. Paganino ripeto. Versione notturna di Spirito di patata. Infatti ci dobbiamo calmare, yeah, perché le stiamo già sì, giocando. Sì, infatti devo tutte compensare, perché è comunque dalle 17 che questi mi sentono, che queste mi sentono, delle ascoltatrici. Vabbè, c'ha le saranno fortune. Anche stanche. Sono un po' bollita, però tenterò di essere yeah. Buone le patate bollite. Uno dei miei piatti preferiti, di quelli non sì devi cucinare, olio, limone, sale, un po' di aceto. Vabbè, io sono per quelle fritte. Ecco. Sozze unte. Pensate, qua c'è ancora Ella Fitzgerald che invece cantava delle cose molto più serie, molto più eleganti di noi. Voi, ma noi, lo sapete, nascondiamo l'eleganza nel profondo di noi. E io faccio un uso privatistico del mezzo e saluto la mia gatta, che tanto non lo capisce che la saluto, però la saluto che è cascata. Fatemi condividere questa cosa con voi, ascoltatrici, voi amanti di animali, streghe e quant'altro. Mi è caduta la gatta dal quarto piano, ho passato una settimana di passione, sono felice di stare a raccontarvelo perché è andato più o meno tutto bene. E quindi niente, sono pronto. Posso dire, adesso ti faccio un insulto. Tu sei come il Linus di Radio DJ che racconta gli affaracci suoi. Ma di cui non gliene può fregare. In tre anni che sto a questi microfoni, forse è la prima volta. Su via, come non si, cioè, proprio prima ho detto amore, amore, amore. Poi è un insensibile, veramente. Amore. L'amore chi? De chi? Vabbè, è vero, l'amore per i gatti, l'amore per i gatti. Esatto, sì, lo so, è una cosa che non tutti e non tutte capiscono, però. Chi ha già sofferto per un animale. Adesso non la mettiamo sul patetico. Su via. Va bene. Metti una canzone e poi partiamo così, proprio così. Sì, una canzone breve, magari cantabile, oppure molto così, molto allora, groar. Non è cantabile, non è groar, perché. Io voglio Mandalir, sappilo. Dopo Boh, cercheremo Mandalir. Intanto ci ascoltiamo Fionep. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Insomma, questa è Fiona Apple con una cover dei Beatles, abbastanza famosa questa canzone, stava nella colonna sonora di un film, ma questo era per dirvi che sta uscendo, faccio quello che facevano le Sisterhood, sta uscendo ma credo che l'abbiano detto anche le Sisterhood, il disco di Fiona Apple nuovo, ho visto la copertina sul social network, ho visto la copertina. E quindi io sono molto contenta. Lei ha una bellissima voce, nonché un gran talento, nonché è bella come il sole. Se qualcuno ha il suo indirizzo, si facesse avanti. Intanto dagli il tuo, va. Lo condividesse. Bene, cominciamo col nostro angolo. L'angolo pop. Poi ci mettiamo. No, perché probabilmente ci sarà qualcuno o qualcuna che, visto che andiamo in onda alle 22, non ci ha mai sentito. Ecco, noi siamo la trasmissione di femminismo pop. Parliamo di cose popolari, così un po' pop mainstream dal nostro filtro. E a volte parliamo anche di soap opera e pettegolezzi. Oggi parliamo a volte parliamo di sesso. Anche di sesso, sì, sempre. Beh, il sesso è la base di tutto. Parliamo di fumetti. La Marvel, attenzione, fa sposare due protagonisti di un fumetto. Il fumetto in questione è Astonishing X-Men. Yes. C'è stato un avviso, una specie di save the date, che non sai che cos'è il save the date, ma è un tipo ricordati la data, per giugno 2012, Astonishing X-Men numero 51. Beh, nel numero 51 si svolgerà il primo matrimonio in casa Marvel, ed è tra Hulking e Wiccan, che sono due X-Men. E la cosa carina, ci sta nel numero precedente ed è meraviglioso, potete andarlo, se cliccate, vedete, cliccate su matrimonio Marvel, è veramente meraviglioso. Ci sta la dichiarazione d'amore che fa il personaggio, uno che si inginocchia, gli dà l'anello, ed è veramente carino. Tutto questo, ci sta la copertina di Astonishing X-Men, che è veramente strepitosa, yes, dove ci sono loro che sono in una via di New York, che si sposano, si abbracciano. Ci sono io vorrei capire come hai riconosciuto la via di New York. Perché ci sono i grattacieli e perché c'è scritto sotto che è New York. Vabbè, comunque sarà una città americana, non lo so. Ci sembra una cosa carina. La Marvel sta al passo con i diritti. Forse, non lo so. Almeno loro. E poi pare che anche in casa DC Comics ci sarà un'uscita. Adesso se lo fa la Marvel, sì, lo deve fare anche la DC Comics. Ma no? Viva, fatevi concorrenza su queste cose. La DC Comics è quella di... come si chiama? Come si chiama? Batman. È quella di Batman. E dove un tempo c'era una famosa vignetta in cui loro dicono: noi non siamo gay, we are not gay. Ecco, appunto, perché Batman e Robin vanno sempre insieme. Lei dice: vabbè, io non sono incinta. Esatto, vabbè, io non sono incinta. E quindi ci si chiede quali sono, perché loro hanno lanciato questo comunicato stampa in cui dicevano che ci sarebbe stato un outing di un personaggio che poi avrebbe portato avanti la causa dei diritti civili degli omosessuali. Batman. E quindi la gente si chiede: chi sarà? Ma è cosa? Sarà Batman, visto che sta troppo nella Batcaverna con il maggiordomo? Sì, taglia questi maggiordomi in questi giorni, sembra... sembriamo tornati ai gialli... Vabbè. La caccia al supereroe che presto farà outing, secondo voi? Ma no. Non è lui che sta... c'ha Robin pure, lui e Batman. Batman e Robin, infatti, potrebbero essere una coppia. Ma sono loro due, ma cioè il mondo LGBT lo dice da almeno 35 anni. Potrebbe anche essere Lanterna Verde. L'hai visto Lanterna Verde? No, non l'ho visto. Potrebbe essere... non lo so, boh. Vabbè, senti, va. Wonder Woman! Questa cosa, tutto questo, perché io ho scoperto queste notizie? Perché io oggi stavo andando a cercare... Allora, prima di tutto non parlare come quello dell'autorizzazione ministeriale concessa delle pubblicità radiofoniche. No, non lo faccio. Sono le 22:20. Magari qualcuno si sta anche mettendo sul divano. Tutto rilassato. Questo perché? Tutto questo perché? Perché io oggi ho googolato Wonder Woman. Perché ero convinta che il personaggio che faceva outing era Wonder Woman. Poi ho scoperto che sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto. Io ho cercato pure se avevano fatto una versione già. Già c'era qualche cosa di palesato, se avevano fatto una versione lesbica. Guarda, io è una quello vita che aspetto Giulia, il fumetto, non so se l'hai mai letto. Sì, esatto. Pure lei aspetta che faccia outing. E sì, potrebbe essere un'idea. Comunque, segnatevi sul nuovo dizionario Googolare. Ci arriva un saluto da Trieste. Un saluto e un abbraccio a Radio Onda Rossa. Doveva specificare alle patate, però vabbè, niente. Quindi non la salutiamo. Dai, vabbè, ti ho trovato a Mandalir. Pensa un po'. E vai, proprio quello che volevo. Forse, aspetta che ci sta, non so perché, Chopin di sottofondo. Perché a noi ci piacciono i contrasti. No, ve la devo mettere dall'inizio. Fermi tutti. per l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me semplicemente da me, le braccia muoiono già, da te stia andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se lei, se lui lo sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà. Domani sera cerco te, l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà. Chissà se lei, se lui lo sa, l'amore con me, semplicemente da me, le braccia muoiono già, la testa è andata fissa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se... E insomma, va, stasera ti accontento nella playlist. Stavamo ascoltando Mandalir con Ho fatto l'amore con me, un pezzo veramente simpatico. E siete all'ascolto di Spirito di Patata, questo è ancora fino alle 23, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Sono appunto le 22 e 24. Se volete comunicare con noi in modo molto molto veloce, potete farlo al 342 357 4357, con un sms. E poi noi li leggiamo tutti gli sms. Magari non vi preoccupate che magari non, dove ci insultate, no, scordate, no, non li leggo. Però ci hanno scritto oggi da Genova, ci hanno, carina questa cosa, ci scrivono tutti i posti, ci scrivono ciao. Pensa quanto funziona lo streaming, e... www.onderossa.info. Ascolta, e poi magari non l'ho letto questo qui, non l'ho letto in diretta, quello di Genova, perché stavo leggendo altre cose e mi ero distratta. Però poi noi ce l'abbiamo qua, la schermata aperta, e ci fanno un sacco piacere. Cosa vi volevo dire? Vi volevo dire una cosa, che vendono in Egitto, questa qua perché è una foto che ha mandato una persona che conosco dall'Egitto, un sapone per farti rivenire la verginità. Ah! Sì. Allora, sono due, no, dopo nella nostra pagina Facebook postiamo, cioè, la foto. Appensa la roba chimica. No, a parte che fuffa che vendono, diciamo. Sì, che stai a vendere? Una cosa che fa ricrescere i meme. Ricomponilo. Su Reducation, ricomponiti. E sotto poi ci sta anche la foto per sempre un altro sapone per ingrandire le tette. Vabbè, senti, mi sembrano come quelle cose degli anni Ottanta che vedevi nelle TV private. Marti, che vendeva le cose. Le creme, le controcreme. Eh no, ci sta questa cosa che per ricostituire l'imene. Vabbè, questa cosa comunque è esatto. Però il sapone, però pare che sia una cosa particolarmente dannosa, perché serve per restringere i tessuti muscolari, quindi magari non ti fa non ti ricostruisce l'imene, però ti restringe i tessuti muscolari, quindi ti può creare più dolore in un rapporto sessuale, ti può alterare il pH delle mucose, tutta una serie di cose, perché non è un ci saranno delle zozzerie sicuramente dentro. Adesso non so quali nello specifico. Ma ti vabbè, pare? Niente, vabbè. Ancora questa fissa. Ancora che ci credete che esiste l'imene, poi. Ancora che credete nell'imene. Guarda, allora, esiste il punto G, l'imene è facoltativo. Facciamo così. Ribaltiamo tutta una serie di stereotipi. Dai, su, basta con questa storia. Comunque sì, oltre ai saponi e cose varie, ricordiamo che ci sono varie chirurgie estetiche di ricostruzione che vanno tanto di moda anche in America, o comunque sì, in tutti i paesi anche dell'Oriente, eccetera, sulla ricostruzione dell'imene con questo mito della verginità. Mm-mm. Che noia, ragazzi. Allora, la Mondaini, che barba. Che barba, che noia. Ah, che adesso noia, do una notizia per lanciare il prossimo pezzo. Che ancora aspetta, non c'è, no, con calma, sento. Con calma. E poi dopo sentirete la Vale e Clo che parleranno per, penso, 5-10 minuti insultando il mondo, perché vi vogliamo comunicare una cosa che abbiamo letto, brutta. Così apriamo proprio il microfono a noi stesse. Uno sfogatoio proprio da bar, da femminismo pop. Però prima di introdurre questa notizia ci ascoltiamo Le Garbage. Perché ci ascoltiamo Le Garbage? Perché la cantante delle Garbage è una grande. Ha cacciato via un tipo che stava picchiando la fidanzata al suo concerto. Cosa è successo? Questo stava pure in prima fila. Ma non ti stai a guardare il concerto? Comunque vabbè, chissà che... chi stai a guardare? Ah, ti stai mandando sms con quello? Chi stai a far sentire la canzone col cellulare? Allora, soprattutto, scusate, voglio sapere la località del concerto per vedere se poteva funzionare questa ripresa. Stavo ad Atlantic City. Parlano così. Atlantic City parlano così. Il 25 maggio, quando ha visto un tipo che della platea che stava aggredendo una donna in prima fila. Ma può essere pure che non fosse la sua donna. Io ho detto comunque, così. Aggredendo una donna. Ah, okay. Stava suonando, lei si è fermata. E le ha detto: sto traducendo dal portoghese, non si picchia mai una donna, perché qual è il tuo problema, eh? E l'ha mandato via. Nei miei concerti, no, proprio queste cose non possono avvenire. Vedi che ogni tanto. No, perché poi la sto traducendo dal portoghese? Perché ovviamente non ci sta uno straccio di notizia in italiano su questa cosa. No, vabbè, figurati, sì, ciao, l'hai mandato via. Perché sta picchiando una tipa? Ma no, ma perché? Ecco, vabbè, sono dovuta andarla a cercare. E l'ho trovato su una rivista di musica portoghese. Quindi che ci sentiamo? Ci sentiamo Queer Garbage. Se ce la carica, sì. Thank you. the queerest of the queer. Devo leggere questo messaggio. Ciao mi amate, ma ditemi, è vero che Amanda era un trans, una trans Gabri? Ah, no, Amanda non era una trans, ma lei ci ha giocato tantissimo su questa cosa. Invece, cioè, lei, per farti capire quanto è geniale questa donna, si sarebbe potuta arrabbiare. No, te mangia le parole. Invece no. No, non ci sei mai arrabbiata. No, anzi, cioè, lei ci ha giocato, ha giocato tantissimo con questa ambiguità. E poi vabbè, è una cavallona alta, è una cavallona, una donna, yes. Nata nel 39 ad Hong Kong, cioè, che è stata con Salvador Dalì. Stava con Salvador Dalì, c'aveva una certa, c'aveva, e lei era una faceva prima da modella comunque. E poi dopo è stata l'amante di Salvador Dalì. Un personaggione. E al di là di questo gossip, ascoltavamo Queer the Garbage, che stava, quando i Garbage era un gruppo serio, nel loro primo disco, quello con le piume fucsia e con la scritta Garbage in mezzo, molto molto bello. Ai tempi era tipo forse il 96? Io 97, 98, una cosa del genere, non di più comunque. Sì, sì. Cioè, per questo non te lo ricordi, facevi ancora tante canne. Io volevo salutare veramente anche, no, è iniziato tardissimo. A Caonir da Corridonia, che dice che c'ho la voce sexy. Ma non è vero, l'hai pagato. L'ho pagato. L'hai pagato. L'ho pagato. Insomma, arriva la notizia brutta della settimana. No, perché... la notizia brutta è una di quelle notizie che probabilmente avreste fatto anche a meno senza. Come così con tutte le notizie che vi sottoponiamo. Ma è un argomento così. Parliamone, no? Parliamone. Bestemmiamoci sopra, sfoghiamoci. No, è una notizia. Ci sono un sacco di videogiochi che probabilmente si possono non utilizzare, non giocarci. Vabbè, che sono discutibili, quantomeno per come sono tutti, architettati. Tutti quelli che si gioca in soggettiva, dove si va a sparare di qua, a chiacchierare con quelli e si truffa quello, si fa esplodere la bomba nucleare. Si devasta il paesaggio. Però c'è questo qua. Ci sono anche quelli dove si, comunque... no, si gioca a calcio. Forse quello è il meglio tra tutti, no, i videogiochi. No, vabbè, ci sono anche quelli dove fai le fattorie, dai, su quelli bucolici. No, a parte tutto, poi c'è un videogioco. Ci sta pure il milionario, che a me piace. A me piace questo. Quanto sei vecchia dentro, proprio. A parte queste cose, non certamente per demonizzare i videogiochi, che hanno comunque dalla loro delle cose abbastanza interessanti, per quanto poi attivano nella capacità di problem solving le persone, almeno quanto poi emerge dalle teorie, insomma, degli studi mediali. E me la sto tirando. No, ma io penso, no, che se tu fai questa questo... cosa, pensi che si possa lucrare su questa cosa. Allora, detto questo, è uscito un videogioco. Esatto, adesso Spieghiamo che cos'è, se no ci pensano per ma, cioè non riescono a seguirci. Il videogioco si chiama Replay, che vuol dire stupro ripetuto. La traduzione è stupro, cioè, ripetuto. È già solo questo. È già questa cosa. Vabbè, poi la, come viene spiegato anche mi sembra scorretto, perché il sottotitolo è videogioco erotico in grafica 3D. Adesso, che cosa trovi di erotico nello stupro? Cioè, è una tua malattia mentale? Cioè, perché almeno il videogioco di guerra rimane un videogioco di guerra, non è che dici è un videogioco erotico sulla di formazione del, del ragazzo, no? Tipo il Bildungs game. No, non è quello. Ecco, un videogioco sullo stupro, sulla violenza, e poi tra l'altro c'è anche l'aborto, è un videogioco di violenza, non è un videogioco erotico. Che poi ci siano delle personaggi che hanno la quinta di reggiseno e la minigonna manga da collegiale, sì, giapponese. Il videogioco è giapponese e è arrivato, credo stia arrivando. No, è stato, è vecchissimo perché è del 2006, è arrivato in Italia adesso, e però. E ci hanno fatto al TG2 anche adesso un... è arrivato in Italia comunque, non sì, per sì, quello sì, sì, è sì. uscito questo articolo. E comunque io... durante il viaggio in treno sto tipo viene arrestato per aver molestato un'altra ragazza, è figlio di un importante politico, riesce a cavarsela, è la il canavaccio E niente, ci sono le varie situazioni in cui può avere uno stupro, può stuprare contemporaneamente una, due, tre donne, che poi appunto questa cosa è come collegano lo stupro a il rapporto sessuale e all'erotismo, come se appunto la violenza fosse qualcosa di eccitante e bello, e questa cosa è proprio è questo il nodo del malsano, come la violenza, la cultura della violenza diventa qualcosa di bella, estetica, erotica. È terribile questa cosa. No, comunque è terribile tutta l'idea del videogioco, secondo me è allucinante. Ed è allucinante che questo videogioco sia in commercio, per esempio, banalmente. Cioè, vabbè, che ci facciano i soldi loro. Ma la cosa assurda è che comunque, se tu ci pensi, censurano e vengono censurate a livello anche di prodotti o comunque di manifestazioni del pensiero delle cose che in confronto sono acqua fresca. Questo è un videogioco basato proprio sulla violenza contro le donne, sullo stupro in particolare, e lo mettono in commercio tranquillamente come se niente fosse. Sta in commercio dal 2006 e poi l'UNESCO, l'ONU e cavoli vari di tutte queste istituzioni che pensano all'infanzia e quanto tranquillamente, o il MOIGE, dove sta il MOIGE, quello che proibisce i baci lesbici e gay all'interno delle televisioni italiane, dove sta il MOIGE, perché non ha fatto ritirare dal commercio questo videogioco, io mi chiedo, perché a me i paradossi che mi fanno veramente poi alterare, per cui adesso vi parlerò per 5 minuti di seguito, sono questi, perché santa la pazienza vostra, perché non la mia, perché io non ce l'ho su queste cose, ma è possibile mai che questo gioco stia in commercio, io questo mi chiedo, è possibile mai che un videogioco dove esplicitamente il gioco è stuprare nella finzione le donne, va bene, no, non è stuprare la finzione delle donne, cioè è rendere bello lo stupro, rendere questo è ancora bello più grave, nella è ancora più grave, certo. Ma poi ci si meraviglia se i dati sono, cioè se quello che leggiamo tutti i giorni al martedì e quello che diciamo poi sulla realtà italiana del mondo di come le donne subiscono violenza, ci si meraviglia, dici ma come in quale cultura? In questa, nella cultura in cui un videogioco del genere sta in commercio dal 2006 e nessuno fa niente, questa cultura. Basta non comprarlo, noi abbiamo già fatto... non è uno spot per il gioco, figura, ci mancherebbe, però non penso ascoltatrici e i nostri ascoltatori si mettano... Però appunto, anzi, diffondete questa notizia, magari si creasse un movimento... Secondo me poi si nutrono anche di tutta la... della polemica, sì, vabbè, quello è il famoso discorso, ne parliamo, non ne parliamo, se ne parliamo gli facciamo pubblicità, però è anche vero che certe cose, secondo me, vanno anche dette, perché... secondo me non deve saperle. L'altro giorno riflettevo su tutta questa questione di cui anche abbiamo parlato al martedì nell'editoriale la settimana scorsa, di Brindisi e guardavo e passavo, mi trovavo a passare davanti a una scuola e per caso, vedete, questo è l'orario in cui si racconta il mondo che chiamano da casa, dicendo mi è successo questo, e mi trovavo a passare da una scuola dove chiaramente fuori c'erano una serie di striscioni su appunto questa storia di Brindisi con delle frasi più o meno già sentite attraverso tutti i TG che non vi sto a ripetere. Giri l'angolo del marciapiede e a terra con la bomboletta spray c'è scritto il nome di una persona X che adesso non mi ricordo, poteva essere pure Claudia, capiamoci, terza C, sei una grandissima tra... Cioè, scusate, io volevo entrare, io a un certo punto ho avuto quel movimento proprio da femminista che mi veniva voglia di entrare dentro la scuola, parlare con gli insegnanti e dire scusate, voi state tanto, avete fatto tanto anche dei discorsi probabilmente su tutta questa questione della scuola femminile eccetera eccetera, ma forse come al solito vi siete persi dei particolari. Ora, secondo voi è normale che fuori dalla vostra scuola ci sia un insulto comunque così pesante per una ragazza che parla sempre di violenza contro le donne, parla sempre della stessa cosa? È inutile che poi fate politica, cioè provate a fare pedagogia a scuola e non riuscite a capire che non è una questione di bullismo, ma che, santa la pazienza, ci sono certe cose che vanno nominate per quello che sono, nonché la violenza, comunque il predominio maschile sulle donne è quello. E parte da lì, parte da scuola, dagli insulti sul marciapiede, che sono, che sì, probabilmente sono quelli che sentiamo e abbiamo sentito tutti quanti nella nostra infanzia e adolescenza, però è inutile che facciamo tanti discorsi e proviamo a fare gli striscioni quando poi non parliamo alle ragazze e ai ragazzi a scuola del, appunto, di un diverso dialogo tra uomini e donne, che forse loro dovrebbero scendere da questo piedistallo e comunque sicuramente non dovrebbero usare violenza contro le donne. Questo è il senso. E adesso, dopo che ho fatto questo pippone micidiale... T'è partita la ciabatta, t'è partita. Io ero partita la ciabatta, mi pareva mi nonna che borbottava. Ho capito, raga, ma cioè, a qualcuno le devo dire. Sì, le dico, infatti, a voi, così il tuo sfogatore, il tuo angolo da bar. Noi siamo qua al bancone e la Clo si sfoga. Manca la birra, però. Manca la birra. E comunque stavo pensando a quella cosa là dello studio di quando mi hai dato di Linus e cose varie. Hai presente che adesso queste radio stanno tutte in televisione, questa modernità che c'ha... E tu, se tu vedi questi studi tutti asettici, eccetera, quanto sarebbe bello vedere questa regia. Ah, ci dicono che ci sta l'ultima della serie dei casalinghe, quindi... Siamo out, non parliamo dell'ultima serie delle casalinghe. Vabbè. Tutto, è l'ultima. Ah, vedi, infatti è stata turbata, lo so, i telefilm sono un bel... Intanto voi vi ascoltate una canzone. Volta, ogni volta è l'ultima. Did you hear? i Cardigans. Quest'anno siamo... Sì, quest'anno, ciao. Quest'anno, siamo proprio anni 90, perché abbiamo, siamo a rispolverà i Cardigans. Esatto. I Garbage. I Garbage, che ci manca? Cioè... Gli Overphonic potremmo mettere. Ah. Ma pure questa canzone era un sacco bella, dai, dai, dopo gliela mettiamo. I Portishead? Vabbè, sì. I Portishead ancora oggi. Vabbè, però. Anni 90, c'era 95-96, c'era quel disco. 95-96, 97-90. No, più tardi. Cioè, 95, io stavo al liceo nel 96. Anche io. Come siamo giovani? Siamo giovani. Stavo al liceo. Ah, che vogliamo dire? Dopo che le abbiamo no, sì, mi sono sparato tutte le micette troppo presto. Perché. No. Infatti, adesso mi è scesa proprio la stanchezza. Tra un po' vi canto proprio buonanotte, buonanotte. Ah, basta che non ci canti buonanotte, buonanotte, fiorellino. Volete vi canto la ninna nanna? Ma sapete cosa canta mia figlia? Dai, lo vedete che questo orario... La fiera dell'est, quando devo fare la dormita proprio per stenderla, no? Te credo! Con due soldi... Con due soldi è tutta la cosa del il gatto, il cane, il bastone. Sì. Un po' me la invento, un po' no. Perché ovviamente non la sai. No, la so. Cioè. Sai. Vabbè, sono le 22:40. Lo sapevi che mi cantava mia mamma? Ti dico cosa mi cantava mia mamma, però mia mamma. Ma poi lo volete sapere, secondo me no. Mi cantava La società dei magnaccioni? Beh, però dai. E Roma Capoccia. Beh, Roma Capoccia ci sta. Dai. Queste due. E poi mi diceva, vabbè, va a dormire, va. Cioè, ma ancora, ancora? No, basta. Questo non andava. Ottimo, fantastico. Manco una Gabriella Ferri. Ecco, bravo, potremmo mettere... Ecco, una bella Gabriella Ferri, sì, basta questi anni 90. Anche perché mi fanno sentire un po' vecchia. Eh no, abbiamo detto siamo giovani. Lo so, vabbè. Ma questo invece c'ho... Si fa presto a dire giovani. A quest'ora io sto già imbustata nel letto, di solito. Vabbè, perché... non è che le nostre ascoltatrici gliene frega... No, perché devono capire che il mio calo di sprint, l'adrenalina è scesa. Vabbè, ce l'avrei lo stesso, le fans... Io ho scritto Gabrielli Ferri invece di Gabriella Ferri. Che ci sentiamo di Gabriella Ferri? So. Barcalolo Romano. Barcalolo Romano. Così, hai deciso? Sì, è triste però bella. E poi dopo tutte queste canzoni romane che ti ho detto che fanno proprio... Anche questa la so, quindi Barcalolo Romano. Cioè, pensa alla presentare in questo video Pippo Barco. Che era già vecchio. Canta bene stasera. C'è sul fiume che fiotta così, disgraziato, chi sogna, chi spera, tutti il mondo dovemo soffrire, se c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla. Soltanto che qui e ripari crono contro prete e quando venta l'eco se risente. Love. Ci è arrivata una bellissima notizia. È nato Riccardo, figlio di Laila e Fede. Ebbene, e quindi auguri. Benvenuto Riccardo, auguri auguri. Come siamo pop. Come siamo pop. Sono un po' cecaccio. No, no, vabbè, che si fanno queste cose. Poi saranno due compagni, quindi auguri a Riccardo. E soprattutto auguri a Laila, che si sarà impegnata questo Riccardo oltre 9 mesi a spingere. Però e mo si dovrà impegnare ancora di più. Noi di solito facciamo una rubrica che si chiama Sono fra noi. No, la sigla non te la metto. No, non me la metto, c'è bisogno che mi metti la sigla stavolta. Poi la metto. Sono fra noi. Grazie. Ecco, finito l'allarme. Nel Sono fra noi c'è una lesbica non dichiarata che noi tiriamo fuori così. Che facciamo questo favore. Però stavolta vi raccontiamo Sono fra noi al contrario. No, raga, questa è la notizia proprio. È la notizia. Trovata su il nostro portale di cultura lesbica preferito, che si chiama Let's Pop, e titola: Gerardina Trovato si fingeva lesbica. E no. E noi non lo sapevamo. Beh, lei ha noi. Fatto un'intervista a chi? Allora, o è come Povia che a un certo punto si è pentita, non lo so, così, oppure come dice lei, ma mi finsi lesbica per vendere più dischi. Ma ti pare? Ecco la dichiarazione shock. Ma che poi è una cosa proprio improponibile, perché in Italia, cioè, non si è dichiarata nessuna per quel timore lì di non vendere più un disco. Manco Gianna Nannini l'ha detto. Ha detto che è visto? Poliamorica, poliesaurita, no? Vabbè, comunque, no, questa infatti la trovo una notizia stupenda. Cioè, come fai a... Ma poi è proprio se la pensate, è veramente improbabile. Che lo stai cercando, Gerardino no, Trovato? No, non la metterò mai, Gerardino Trovato. Pensavo non sono, non arrivo a questo. No, volevo finire di leggere questa cosa perché è molto ilare. Allora, che cosa succede? Che cosa dice? Andai a Sanremo, ero magra, ero bella, mi spediscono a Sanremo, categoria 9 proposte, all'Ariston il mio look fa tendenza, ovviamente perché... Comunque la gente non sta bene, il problema non è che è lesbico, non lo è che non stai bene. C'è un però, perché è un però, tutti pensano che io sia lesbica, sto al gioco, mi dicono, funziona, vendiamo più dischi, non smentire, fu la mia rovina, non so che cosa mi perché passa per la testa. Perché non funziona, infatti. Cioè, non ha mai funzionato in Italia. Ma che stata di prima fammi incontrare il tuo discografico che ti ha detto questa cosa. Non so che cosa mi passò per la testa. Avevo accettato di snaturarmi per il dio denaro. Come se non bastasse, la nostra Gerardina, per colpa della sua ambiguità, si ritrova ad avere una pericolosissima stalker. C'è stato un momento in cui la mia felicità dipendeva dalla morte di qualcuno. L'amore malato di una donna, la mia assistente, mi ha rovinato la vita. Mi sentivo in trappola e non riuscivo a liberarmi. Ma perché neanche l'assistente sapeva che non era lesbica? No, allora lei è rimasta traumata, che è finita in una relazione evidentemente non bella, perché se così è stato. Però dopodiché da questo, vabbè, lo fa, lo fanno, lo fa. No, ma comunque dai, non si può sentire perché veramente, ma chi, mi dovete dire, ascoltatrici e ascoltatori, alle 22:59 quando ormai stiamo per salutarvi, ma chi? Si è, giusto, Tiziano Ferro si è dichiarato e ha continuato a vendere dischi. No, infatti cosa dice questo qui di Let's Pop? Ma vi rendete conto? Per vendere più dischi uno si deve fingere lesbica? Ma vi rendete conto? E noi che per anni e anni abbiamo pensato il contrario? Ma quanto siamo ingenue. Quindi ragazze, impariamo la lezione e chiediamo scusa alle varie Carmen Consoli, Emma Marrone, Gianna Nannini di turno per aver pensato anche solo per un istante che fossero lesbiche o bisessuali. Perché se così fosse stato ce l'avrebbero detto subito. Vabbè. Niente, raga. Allora adesso senti, devi mettere questa canzone. Ecco. Alanis Morissette, So Pure, tanto per rimanere no, anni 90. Devi, no, lo devi ridire. Alanis Morissette, So Pure. Ma che è So Pure? Io avevo una sorella minore che stava in fissa per Alanis Morissette, quindi me la sono sentita cantare. Poi si cantava, si registrava e poi si risentiva col registratore. Va bene. Vabbè, tanto mia sorella è la regia del karaoke adesso. La dedichiamo a Riccardo. Baci e ci sentiamo dopo per la sigla finale. Beh, leggiamo un po' di sms che ci sono arrivati. Vabbè, a proposito del videogioco, una buona proposta è infatti andare a distruggere e a buttare proprio palate e palate di cacca alla casa di distribuzione del videogioco, che adesso non la casa fabbricatrice, programmatrice, non so, il compagno, la compagna che l'ha mandato, ho scritto casa editrice, sì, non è proprio una casa editrice, però ci siamo capiti. Poi ci pongono un'altra questione, se la scritta l'avesse fatta una ragazza, l'ha detto Jamal, e su questo concordo. Il problema che potrebbe essere una ragazza che per vendicarsi scrive per terra, è sempre lo stesso discorso, però purtroppo è quello di una cultura sessista, di una cultura in cui, vabbè, a parte che il termine troia o puttana è un insulto, va bene, come, e perché è un insulto? Perché è un insulto sessista? Perché le compagne, cioè le compagne, le ragazze, quando si devono insultare, quando devono sminuire un'altra ragazza del gruppo dei pari, le devono dare della troia? Perché questa cosa? Perché si gioca su questa cosa? Perché la cultura egemone è quella, ed è quella maschilista, cioè, che è il motivo per cui poi le femministe ci fanno un lavoro sopra e evidentemente non utilizzano mai quegli insulti per insultare qualchedun'altra, per esempio. Che infatti quando uno fa tutto questo discorso, mi è capitato di farlo con tantissime persone, e il punto è sempre quello. Innanzitutto è un insulto contro le donne, primo. Poi ci mettiamo dentro tutto il discorso su appunto la divisione delle donne in sante e puttane, piuttosto che, quindi bene o male, eccetera, eccetera, eccetera. Che vabbè, tutto un discorso lunghissimo che adesso alle 23.04 le nostre ascoltatrici e ascoltatori non rifacciamo, anche perché penso che in parte lo conoscano. Quindi sì, il senso è quello. Potrebbe, è vero, potrebbe anche, io non, come al solito io sì, sono sempre molto buona su questo, salvo sempre prima le donne, quindi non ci avevo pensato che poteva essere stata, forse anche un più probabile, una compagna stessa. Dopodiché resta il problema a monte, infatti. Che la cultura dominante è quella, una cultura maschile, e che le ma donne che non sono esenti dall'assorbire una cultura maschile. Esatto, e quindi poi utilizzano quella struttura gerarchica, quel sistema di valori per appunto poi insultare esattamente le stesse compagne. Va bene, con questo pippardone vi salutiamo e mettiamo la nostra sigla, la sigla che connota la trasmissione Spirito di Patata, la trasmissione di Femminismo Pop, l'ala comica, l'ala da bar. L'ala. Ci trovate ogni 15 giorni fino a fine stagione dalle 22 alle 23 sul martedì autogestivo femministe e lesbiche. Per l'apprezzamento della Ferri, sì, ci abbiamo anche Non gli dà retta a Roma, però te la metteremo la prossima volta, perché messa una di Gabriella Ferri ne mettiamo un'altra, visto che vi piace, anche per la prossima volta. Questo per dire che rispondiamo a tutti e tutte, anche agli sms che ci mandate al 342 357 4357, così come rispondiamo alle mail che mandate a mfla@ondarossa.info. L'importante è mettere in oggetto Spirito di Patata. Ebbene, ci salutiamo, ci si sente su queste frequenze con la trasmissione tra due settimane, perché è una trasmissione bisettimanale. Buonanotte. Buonanotte. Il martedì comunque c'è pure settimana prossima. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we Per scriverci mfla@ondarossa.info, la nostra trasmissione pop sta sul più pop che c'è di social network, inutile che vi dica qual è, quindi se volete cercarci ci trovate pure lì a noi, e buonanotte. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. Say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, ch-